Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, quindi nuovamente un saluto al presidente Carlo Garofolini con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi andiamo con te a parlare del nuovo piano strategico che Poste Italiane ha stilato, un piano fino al 2019 che prevede numerose attività, comprese ahimè anche la chiusura di oltre 450 sportelli postali. Mi vengono in mente per esempio i paesini di montagna dove c'è un unico sportello postale, dove evidentemente, ricordiamo, alle poste si va a ritirare la pensione, si imbucano le lettere, si consegnano i pacchi, insomma, e poi fa anche da banca, insomma, ci sono tantissime cose che fanno le Poste Italiane e immagino la chiusura magari di uno sportello postale può creare veramente forti disagi. Certamente Francesco, come hai detto te, terminato l'intervento parlando di disagi, questo è un po' l'allarme che l'Adico vuole dare, perché ormai sappiamo come il governo in questa fase di svendita dei nostri patrimoni, delle nostre aziende, sta cercando di accumulare soldi dappertutto e nelle varie idee che ormai il governo sta portando avanti, che sembra in fase di ultimazione, c'è proprio il collocamento in borsa, quindi la privatizzazione del 40% delle poste, che certamente con questa privatizzazione, guarda caso, la prima cosa che si pensa a voler fare è quella di chiudere oltre 450 sportelli postali e ridurre negli orari di apertura oltre 600. Quindi certamente una grande riorganizzazione che purtroppo andrà a ricadere un po' sui cittadini. Certamente un ragionamento nato innanzitutto da quello che l'amministratore Francesco Caio pensa di portare avanti, convinto che insomma la posta non sia necessaria a consegnare ogni giorno, ma anche un giorno sì, un giorno no, oppure regolamentare in 2-3 volte alla settimana, ma che nel complesso di una grossa società come le poste certamente si prefigge avere progetti molto più ambiziosi. Ricordiamoci che le poste hanno circa 13.300 sportelli, 143.000 dipendenti. Riteniamo che l'idea di ridimensionare questo ufficio non sia determinata solamente da un'esigenza di regolamentare la consegna della posta, ma detto da quello che era l'idea dell'amministratore, di voler un pochino automatizzare con l'apporto di tecnologie digitali, internet e quant'altro i servizi postali, che una volta invece si vedevano costretti i cittadini a recarsi alle poste e a sostenere lunghe code. Noi non siamo d'accordo sulla chiusura e il ridimensionamento degli sportelli, perché sappiamo che ci sono molti anziani che sono abituati a riscuotere la pensione, oppure ci sono molte persone che hanno esigenza di ricevere la posta, oppure spedire, e certamente chiudere gli sportelli, prescindere da quelli che sono gli strumenti tecnologici, potrà solamente favorire i disagi, i tempi e gli oneri che i consumatori dovranno sopportare. Quale sarà il possibile scenario, quindi? Dobbiamo aspettarci che qualcuno resterà senza ufficio postale o magari entreranno dei privati che faranno lo stesso servizio? Ah, probabilmente tutte e due le cose. Certamente noi non riteniamo giusto che questa tipo di attività venga privatizzata. Noi ricordiamo che Poste sì, da un lato ha degli sportelli, ma dall'altro è molto attenta ad altre ad altri rami, come per esempio ricordiamo dalle Poste Vita, quindi il settore assicurativo, che ha raccolto oltre 13 miliardi solamente nel 2013, ricordiamo come le 13 milioni di carte prepagate Poste Pay, quindi qua parliamo anche di banca, perché a milioni di persone mai hanno il conto corrente aperto. Parliamo anche di una compagnia aerea, parliamo anche di un operatore telefonico con oltre 3 milioni di SIM attive, quindi parliamo di una realtà che sicuramente si posiziona e opera nel mercato in maniera molto massiccia, e riteniamo che quello di dare un servizio come quello degli sportelli aperti sia il minimo, visto l'opportunità che ha avuto di diversificarsi rispetto a un'attività che ormai possiamo anche dire non è più prevalente. Ecco, staremo a vedere allora quali saranno le decisioni del governo e se questo piano strategico prenderà piede, insomma, si attuerà in tutto e per tutto o se ci saranno dei cambiamenti. Grazie al presidente dell'Adico Carlo Garofolini che è stato con noi, ci ritroveremo ancora la settimana prossima con altri due argomenti. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.